I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa è la seconda puntata, la seconda parte della maschera bianca, cioè del percorso che la coordinamenta femminista e lesbica sta intraprendendo verso l'8 marzo. Già abbiamo spiegato la scorsa volta, nella prima parte, che riteniamo l'integrazione che questo sistema richiede ai migranti e alle migranti molto simile all'emancipazione che questo sistema stesso vuole dalle donne e anche all'integrazione che vuole dalle diversità sessuali. Perché il neoliberismo ha la pretesa di farcela indossare la maschera bianca, di farci collaborare a questa società e che così viene propagandata come migliorabile e comunque come la migliore società possibile. Dice, tanto per riprendere il filo che abbiamo tracciato la scorsa volta, leggiamo un passo di Colette Guillaumin, femminista materialista francese, che già nel 1980 diceva: dietro l'idea di differenza si cela la dominazione. E in altre parole, l'ideale che tutti appartengano allo stesso universo, che tutti possiedano lo stesso referente, ma in termini di differenti forme dell'essere per sempre fissate. Quindi la differenza non è una vera differenza, ma sono delle caratteristiche fissate per sempre. Questo vorrebbe metterci in testa questo sistema. Lei già nel 1980 metteva in guardia di fronte alla sostanziale ambiguità del cosiddetto diritto alla differenza sessuale e alla differenza culturale, denunciando il pericolo ideologico di un'eccessiva sottolineatura delle cosiddette specificità culturali dei gruppi dominati, perché questa attitudine tende a vedere in loro entità essenziali anziché insiemi di relazioni. Leggiamo direttamente da lei: ma mentre l'idea di una barriera somatica rappresenta un tipico non ambiguo credo razzista, c'è una certa ambiguità nel parlare astrattamente di differenze culturali, virgolettato, non curanti delle relazioni attraverso le quali i gruppi coinvolti vengono costituiti. Sotto certi aspetti, questo trend antirazzista moderno rappresenta soltanto una continuazione dell'atteggiamento razzista tradizionale. E questo diceva Colette Guillaumin già nel 1980, e in effetti quello che noi chiamiamo razzismo non è che sia un fenomeno statico, muta nelle espressioni in relazione ai cambiamenti politici, storici e culturali, però noi ne dobbiamo cogliere la sostanza. Quindi, prima la definizione delle differenze da parte del sistema e la fissazione di queste differenze, dopodiché l'integrazione, la richiesta di integrazione, la pretesa anzi di integrazione. In effetti, la rappresentazione dell'altro, tra virgolette, è da sempre utilizzata per la costruzione del nemico, di un nemico che permetta la mobilitazione, adesso per esempio, dei cittadini e delle cittadine per dimenticare crisi e ingiustizie, quindi non è altro che una valvola di sfogo, no? Allora, un tempo molto lontano, diciamo nella società che abbiamo attraversato anche noi, ma che ormai è stata diciamo, si è modificata ed è diventata neoliberista, perché l'autoespansione del neoliberismo non è altro che il frutto maturo dell'autoespansione del capitale, però diciamo in una società non molto lontana, nelle correlazioni tradizionali c'erano delle classiche equazioni, chiamiamole così, no? Allora, per esempio, il comunismo uguale dittatura, la lotta armata uguale terrorismo, l'autonomia uguale violenza, le lesbiche, le diversità sessuali immorali, o gli omosessuali, per esempio, corruttori, gli anarchici senza Dio, le femministe rovina famiglie e compagnia bella. Queste, alcune di queste sono venute meno e qualcuna è rimasta, però molte altre si sono aggiunte. Per esempio, adesso nella scala dei valori che propaganda il neoliberismo, i poveri sono uguali a delinquenti, i disoccupati sono falliti, i lavoratori pubblici sono fannulloni, gli operai sono scansafatiche, gli insegnanti rubano lo stipendio, i pensionati sono parassiti, la politica è sporca, i partiti sono corrotti. I collettivi politici, centri sociali sono covid estremisti, i resistenti della Val di Susa sono, non sentono ragione, sono violenti, chi si batte contro i CIE fomenta rivolte, no? Però riportando tutta questa sfilza di correlazioni, ci accorgiamo che una volta queste erano l'armamentario dell'estrema destra, invece oggi attraversano l'insieme dei discorsi mediatici di tutto l'arco politico. No, mi correggo, diciamo dell'intero arco partitico, perché la politica è anche la nostra. Allora, tutta questa gamma di definizioni e tutta questa ricchezza di argomentazione, infatti, viene portata avanti con un lessico formalmente di sinistra e con un lessico che appartiene al politicamente corretto, e sono i partiti, le associazioni e le organizzazioni socialdemocratiche che lo portano avanti, e praticamente sono quelle che si sono prese l'onere di naturalizzare il neoliberismo in questo paese, e quindi di fatto si sono trasformate nella destra moderna. E infatti uno dei temi più ricorrenti in cui si esercita questo dualismo noi e gli altri è quello riferito agli immigrati, no? Quanto mai di attualità. Cioè, l'immigrato è disoccupato, l'immigrato ruba il lavoro, porta via la casa, sfrutta i nostri servizi e il nostro stato sociale, le immigrate poi sono ruba marito, sono prostitute, poi sono conigli perché si moltiplicano a dismisura, sono spacciatori, sono stupratori. Questa è l'immagine che poi acquista ufficialità quando viene veicolata dai media, dai partiti, dove gli immigrati vengono presentati, gli immigrati e le immigrate, come quelli che minacciano l'identità, l'integrità, la sicurezza della popolazione, la sovranità del territorio italiano. Il discorso politico sull'immigrazione viene così ridotto a un problema di sicurezza. Paródia de Monte Machê, sem macama com sabura. És vida só que não está vivendo. Paródia de Monte Machê, sem macama com sabura. Angola, Angola, oi, força. A minha osca está matando. Um bem com hora para amanhã caminho. Angola, Angola, e que poça, a minha onça canta matã, o meu arpa manhã caminho. Allora, ma noi, partendo da qui, volevamo parlare dell'integrazione, del concetto di integrazione, che noi troviamo molto simile appunto a quello emancipatorio delle donne, perché questo che abbiamo descritto è l'impianto, no? Di questo sistema. Però c'è una tecnica discorsiva che definisce per contrasto colui che si è integrato, quello e quella che si sono integrati. Questa immagine produce il messaggio che chi vuole davvero integrarsi lo può fare, quindi gli altri che non si integrano, che non si sono integrati, che sono rimasti poveri, che sono dei disgraziati, è perché lo hanno scelto o si sono accontentati di farlo. Questo è, non riguarda però, è un'immagine che non riguarda soltanto, cioè che riguarda direttamente gli immigrati, però che non riguarda poi soltanto loro, perché per trascinamento il discorso vale per tutti i poveri di casa nostra, perché così la responsabilità delle discriminazioni si rovescia sulle stesse che la subiscono. Allora, l'integrato, cioè questo immigrato, questo soggetto che si deve integrare e quindi che si è integrato, prendiamo quello che si è integrato, segue un percorso che lo porta a somigliare all'italiano della rappresentazione mediatica e quindi si appiccica una maschera bianca alla sua figura. Tant'è vero che l'immigrato integrato deve essere necessariamente devoto ai valori di questa società, servile, soprattutto deve avercela fatta, virgolettiamo questo avercela fatta, perché si deve essere realizzato. Deve inoltre acquistare la fiducia e pertanto essere il primo nella condanna della stragrande maggioranza degli immigrati che invece non ce l'hanno fatta e quindi richiedere pene severe nei loro confronti, legislazione imperniata sui respingimenti, giustificando e nobilitando l'uso dei CIE che poi adesso hanno cambiato nome ma non sostanza di fatto, no? Gentiloni ha deciso un CIE in ogni regione, 1600 posti, non vorrei sbagliarmi, e quindi il successo e l'adesione, il successo cioè il fatto di avercela fatta e l'adesione ai valori di questa società sono i due punti cardine che definiscono l'integrazione. Sì, il concetto di integrazione in questa società si impregna proprio su questo, cioè sul successo personale, cioè sul fatto della riuscita personale e l'adesione alla scala di valori di questa società. Quindi, tra l'altro, riflettendoci in maniera abbastanza immediata, l'integrazione presentata così rimanda inevitabilmente a una situazione di inferiorità di partenza e quindi si rinnovano immediatamente i termini del razzismo. Allora, i media, i discorsi dei partiti sono costruiti, cioè i discorsi che fanno i media, i partiti, eccetera, sono costruiti attraverso un rinvio a figure, a soggettività di immigrati che infatti si oppongono a politiche di apertura, di tolleranza, di rispetto verso la cultura dell'altro, ma anzi veicolano richieste appunto di sicurezza, no? E quindi perpetuano l'oppressione di tutti gli altri per il bene loro, perché è un concetto questo di cui si è impossessata proprio la sinistra socialdemocratica. Tant'è vero che si ondeggia tra una lettura paternalistica dell'immigrata e dell'immigrato che è docile, subalterno, però può ricadere nella criminalità, nel terrorismo, deve essere coltivato in certo modo, deve continuamente dimostrare di essere attendibile, di poter essere accettato, no? In uno sforzo continuo di questo adeguamento. E quindi gli si chiede, allora, una visione paternalista di questo tipo, per cui dice sì, è bravo, però c'è sempre questo sottofondo di ambiguità e di perplessità nei confronti di un'adesione, vabbè, che può essere sempre a rischio. E l'altro invece è una visione colonialista che vede nell'immigrato integrato la prova comunque della superiorità del nostro sistema, cioè nell'uno e nell'altro caso all'immigrato e all'immigrata si chiede sempre adesione e partecipazione. Pertanto quello che ce l'ha fatta, quello e quella che ce l'ha fatta, che si è integrato, che ce l'ha fatta, che cosa succede? Che ingiunge il più possibile a se stesso di essere il più somigliante possibile a quello che si aspettano da lui i borghesi ben pensanti. E quindi è una legittimazione, si comporta in modo tale da legittimare la condotta del sistema contro l'immigrazione, i poveri e gli oppressi tutti. Angola, Angola, oi, força, a minha os cata matando, bem com hora para banhar caminho. Noi siamo in una società neoliberista, no? Ma il neoliberismo non è così calato da chissà dove, è la forma compiuta e attuale del capitalismo nella sua necessità autoespansiva. E questa forma compiuta attuale non può che distruggere tutte le economie altre, non sopporta l'esistenza, neanche l'esistenza di economie altre. Questo che significa? Che questo atteggiamento, questa scelta si proietta nel rapporto con le altre culture, nei cui confronti non c'è assolutamente rispetto delle peculiarità, ma c'è una forma, se vogliamo chiamarla così, di cannibalismo culturale, perché il capitalismo è metabolismo sociale. Infatti i due popoli più perseguitati di fatto sono negli Stati Uniti i nativi e nell'Europa occidentale i Rom. Entrambi si sono sempre opposti in maniera organizzata o in maniera istintiva al progetto di integrazione. Sono quelli che in effetti si sono opposti di più. Tant'è vero che anche adesso noi assistiamo negli Stati Uniti alle lotte dei Sioux contro delle tribù Sioux nel Nord Dakota, contro il Dakota Access Pipeline, spero che si pronunci così, che è un gigantesco oleodotto che porterebbe stravolgerebbe assolutamente le loro terre e farebbe un'operazione a parte un impatto ambientale devastante, ma proprio anche uno snaturamento totale dei territori, no? E a questo proposito ci viene in mente una storia che noi vorremmo raccontare. Non so, magari nell'iniziativa che faremo intorno all'8 marzo, la storia di Mary Crow Dog, che è una donna indiana, cioè chiamiamola indiana, una nativa d'America, è una donna Sioux, che è stata, è nata, quindi appartiene a una generazione recente, perché è nata nel 55 ed è morta nel 2013. È nata in una baracca nella riserva di Rosebud, spero che si dica così, nel sud Dakota, e in una situazione senza acqua corrente, riscaldamento, elettricità, perché nella riserva non si sapeva neppure che cose, che esistessero queste cose, e che perfino i poveri dei ghetti hanno e conoscono. Comunque, al di là di questo, la sua storia è esemplare, perché il primo contatto con l'America bianca ce l'ha Mary quando viene trascinata a forza in un collegio cattolico perché deve imparare il vivere civile. E quindi l'educazione nei suoi confronti consiste nell'abbandonare le proprie credenze a forza di punizioni per assumere, virgolettiamo dalla sua biografia, perché Mary Crow Dog ha scritto una biografia, un'autobiografia pubblicata nel 97, non vorrei sbagliarmi, che è intitolata Donna Lakota e che racconta proprio la sua storia, no? Dice quindi: l'educazione consisteva nell'abbandonare le proprie credenze a forza di punizioni per assumere l'aspetto esteriore della vita civilizzata. Perché le scuole in effetti erano state pensate come un'alternativa allo sterminio completo della nazione indiana, e di fatto la cristianizzazione era solo una morte lenta. Ma Mary scappa dalla scuola e viene, diciamo così, travolta positivamente dall'ondata di lotte che attraversano le riserve negli anni 70. Quindi entra nell'American Indian Movement e partecipa alla storica resistenza contro la polizia nel febbraio del 73 per 71 giorni a Wounded Knee. Questa resistenza è molto nota, è stata definita il grande atto simbolico, ed era cominciata con una manifestazione perché una giuria aveva assolto dei cowboy bianchi colpevoli dell'omicidio di un ragazzo nativo, no? E quindi lei fa parte di questo movimento. Conosce Leonard Crow Dog, che poi diventerà suo marito, che era considerato il capo del movimento, che poi tra l'altro è stato condannato a 23 anni di reclusione, e allo stesso tempo, mentre venivano eseguite queste condanne, diciamo amici, parenti eccetera, morivano, come è successo per il Black Panther, in strani incidenti o in sparatorie con l'FBI. Quindi Donna Lakota non è soltanto l'autobiografia di una giovane nativa nordamericana, ma è anche la storia della lotta di un popolo e un atto d'accusa contro le leggi e la società americana. C'è un proverbio cheyenne che dice: una nazione non è conquistata finché i cuori delle sue donne resistono. Tutto questo che vi abbiamo raccontato è un'operazione che è in atto anche nei confronti di noi donne. È questo che questo sistema intende per emancipazione e integrazione, cioè l'adesione ai valori della società patriarcale e alla sua strutturazione sessista, classista e razzista. Chiaramente l'adesione a questi valori comporta di fatto sempre un gran numero di donne, la stragrande maggioranza, emarginate e oppresse in diverso grado a seconda del dato biologico, censorio, etnico, mentre il paradiso è promesso per alcune, è raggiungibile solo da alcune e non per tutte, solo per quelle che sono disposte a tenere nell'inferno la stragrande maggioranza delle altre. Ma quelle che sgomitano, che si danno tanto da fare per ottenere promozioni individuali, non si facciano illusioni. L'emancipazionismo è sempre sub iudicio, cioè così come si è trasformato in questa società, è sempre discrezionale. è a discrezione da parte del potere, e questo, anche questo ce lo dobbiamo sempre ricordare. Comunque noi non ci metteremo mai la maschera del maschio, non ci metteremo mai la maschera bianca, non ci metteremo mai la maschera del bianco, non ci faremo mai omologare e integrare, e scapperemo sempre dalle riserve. Ciao.